la virgola di Elisabetta. Ciao a tutte. Il corpo. Questa società si definisce mediante il posto e il valore che assegna ai due sessi e ai loro atteggiamenti socialmente costituiti. Il che comporta il fatto che esistano tante maniere di realizzare la femminilità quante sono le classi e le frazioni di classe. La verità di una classe o di una frazione di classe si esprime quindi nella forma in cui i sessi sono distribuiti al suo interno. Mentre il femminismo ha cercato di portare a consapevolezza e di utilizzare politicamente tale correlazione, nella risposta socialdemocratica i ruoli sessuali continuano ad essere definiti e le nuove esperienze ibridanti della sessualità, transessuali e transgender, non sono tese alla rimozione dell'organizzazione classista e sessista, ma ne costituiscono una variante, spesso al servizio della soluzione economicamente più redditizia. Pertanto il femminismo socialdemocratico e l'ibridismo sessuale filo-occidentale diventano puntelli di questo ordine sociale. In questo modo si avalla il principio che questa società sia positiva e la si eleva ad assoluto, rispetto alla quale il divenire temporale deve essere considerato come una forma già precompresa e organizzata. Da qui la radice, la causa e il principio della violenza che la società stessa perpetra e che viene giustificata come difesa dell'ordine naturale e razionale. Accettando l'esistenza, l'ordine e la gerarchia delle classi sociali come naturali, le funzioni politiche dello Stato acquistano valenza sociale. Da qui il diritto all'uso della forza e al monopolio di questa che lo Stato pretende di avere, per cui si sanziona il principio della violenza legalizzata e istituzionalizzata. Per questo dimenticano che lo stesso corpo è un prodotto sociale. Non esistono segni fisici veri e propri. L'immagine sociale del proprio corpo, con cui ogni soggetto deve fare i conti, si ottiene attraverso l'applicazione di un sistema di classificazione sociale. I segni costitutivi del corpo sono prodotti di una fabbricazione culturale vera e propria. Dimenticare questo ha comportato devitalizzare l'impulso rivoluzionario del femminismo, deviandone la sensibilità, l'immaginazione e l'analisi verso forme di determinazione individuale e collettiva opposte alle premesse ideali. I sentimenti umani di reciproco riconoscimento, di mutuo aiuto e di vicendevole costruzione delle proprie esistenze sono stati tradotti in promozione individuale e sostituiti da meccanismi di promozione sociale, isolando le soggettività indisponibili a questa soluzione e le tante non coinvolte in questo processo, mettendole nella situazione di essere represse. Chi ha fatto queste scelte si è resa complice del razzismo istituzionale che rinchiude nei CIE per condizione, della discriminazione e persecuzione di comportamenti, etnie, nazioni o parti politiche della società. La ricerca della felicità individuale e collettiva è stata capovolta in una realizzazione personale totalmente dimentica dell'originaria azione creativa e dialettica del femminismo, capovolgimento favorito attraverso l'indirizzo dei mezzi comunicativi e formativi di massa, per cui ogni riflessione e pratica eterodiretta rispetto alle pratiche dominanti viene rinchiusa nella logica del negativo e del patologico da reprimere, utilizzando le componenti socialdemocratiche e riformiste come agenti controrivoluzionari. Da qui l'incremento della violenza. A quella tradizionale che si manifestava nello sfruttamento all'interno del sistema organizzato di fabbrica o di impresa capitalistica, a quella che veniva esercitata nei confronti di chi aveva un orientamento ideologico diverso, a quella secolare di genere, oggi si è aggiunta quella di piegare al capitale, valore assoluto, la stessa libertà esistenziale vitale. In questa società, realizzazione della civiltà, fra virgolette, la violenza non è più qualche cosa di esterno, ma è immanente, è causa e principio, e perciò è legalizzata ed istituzionalizzata. La visione esclusivamente emancipatoria della condizione della donna annulla l'idea e gli ideali di liberazione, rimuovendo l'orizzonte comune e collettivo della libertà. Ciao! No.